La storia e la memoria. È un merito del Parlamento italiano, un segnale anche per altri parlamenti, quello di aver approvato in prima lettura in Commissione Giustizia il disegno di legge sul negazionismo. Sono convinto che presto sarà completato l'iter legislativo. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha commentato lo scorso 15 ottobre, nel mezzo delle polemiche relative ai funerali e alla sepoltura dell'ex ufficiale dell'SS Erich Priebke, il via libera da parte della Commissione Giustizia di Palazzo Madama al disegno di legge che introduce il reato di negazionismo di crimini contro l'umanità e di genocidio. La pena prevista è la reclusione fino a 5 anni. In caso di apologia e istigazione a delinquere, negli stessi casi si prevede un aggravante che la porta fino a 7 anni e mezzo. In realtà, per l'opposizione, in particolare del Movimento 5 Stelle, non è stata concessa al disegno di legge la sede deliberante, vale a dire una procedura accelerata. Quindi occorrerà ora che si esprima l'Aula e successivamente la Camera in seconda lettura. Si riapre in tal modo a livello politico e a livello della comunità scientifica un dibattito che da noi era già stato all'attenzione delle cronache nel 2007, quando l'allora ministro della giustizia Clemente Mastella presentò un analogo provvedimento. Ne parliamo questa sera con lo storico Luigi Caiani, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma, che è in studio con noi. Buonasera professor Caiani. Buonasera. Partiamo dal 2007, professor Caiani, e da questo appello che venne firmato da 200 storici in cui si esponevano le ragioni della comunità scientifica contro l'introduzione del reato di negazionismo e più in generale, su questo che ci soffermeremo in particolare, contro l'intervento giudiziario in un terreno proprio della ricerca storiografica. Come storici e come cittadini, siamo sinceramente preoccupati che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale certamente rilevante come il negazionismo attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna. Sostituire a una necessaria battaglia culturale, a una pratica educativa e alla tensione morale necessarie per far diventare coscienza comune e consapevolezza etica introiettata la verità storica della Shoah, una soluzione basata sulla minaccia della legge, ci sembra particolarmente pericoloso. Si offre in tal modo ai negazionisti la possibilità di ergersi a difensori della libertà d'espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare sanzionandole penalmente. Si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico che rischia di delegittimare quella stessa verità storica, invece di ottenere il risultato opposto sperato. Ogni verità imposta dall'autorità statale non può che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale. Allora, professor Caiani, anche lei era tra i firmatari di quell'appello. Ora è disposto a sottoscriverlo nuovamente? E qual è ora la reazione degli storici al disegno di legge all'esame del Senato? Certamente io lo sottoscriverei di nuovo e soprattutto tutta la comunità degli storici italiani, quasi all'unanimità, si sta esprimendo contro questo nuovo disegno di legge. Fra l'altro, proprio nel corso di questa settimana c'è stata una presa di posizione molto chiara da parte della SISCO, l'Associazione dei Contemporaneisti, che riprende sostanzialmente le argomentazioni espresse nel documento che è stato letto poco prima. E anche i giuristi si stanno unendo agli storici. Fra l'altro, proprio in questi anni c'è stato molto lavoro fra storici e giuristi italiani contro questo tipo di leggi. Qual è il problema di fondo? Bisogna intanto distinguere fra la punizione dei negazionisti dell'Olocausto e la punizione di chi neghi più in generale crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ora, per quanto riguarda la punizione di chi nega l'Olocausto, questa non è una questione che riguardi precipuamente gli storici, perché la negazione dell'Olocausto non è certo materia di ricerca storica, è completamente insensata. Quindi, casomai, ci riguarda come cittadini. E come cittadini dobbiamo decidere se la legge penale è lo strumento più efficace per combattere questo fenomeno. Molti ritengono che non sia lo strumento più efficace, anzi che sia controproducente, perché dà visibilità a queste persone, dà loro un'aura di martiri del libero pensiero e così via. Oltretutto, altra cosa estremamente importante, se questi comportamenti sono delle forme di razzismo e di antisemitismo, ricadono automaticamente nella legislazione già esistente, per esempio la legge Mancino. Tant'è vero che il provvedimento che fa da sfondo a questa iniziativa italiana è una decisione quadro dell'Unione Europea, la quale già da qualche anno cerca di omogeneizzare il diritto dei vari Stati membri, facendo loro includere anche il reato di negazionismo nel loro codice penale. Una serie di Stati, e non di poco conto, se mi permetti, cioè Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, si sono rifiutati di inserire un riferimento esplicito al negazionismo, sostenendo che la legislazione già esistente contro il razzismo è più che sufficiente. C'è però l'altro aspetto che invece preoccupa precipuamente gli storici, però non soltanto noi storici, bensì anche i giornalisti, gli insegnanti, chiunque parli in pubblico di temi di questo genere. Ovvero sia, qui normalmente non si coglie la differenza fra la negazione dell'esistenza di un fatto storico, che riguarda esclusivamente i negazionisti per antonomasia, cioè coloro che negano l'Olocausto, e la negazione della qualifica di crimine di guerra o di crimine di genocidio o di crimine contro l'umanità relativa a eventi tipo la sorte degli armeni nell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale, tipo il caso della carestia in Ucraina negli anni 30, ma anche casi più recenti come Srebrenica, come il Darfur e così via, dove la qualifica giuridica è o non è un genocidio, cioè c'era effettivamente l'intenzione di distruggere un gruppo, fosse etnico, nazionale, secondo le sue caratteristiche intrinseche. Su questo c'è grandissimo dibattito fra storici e giuristi. Quindi un intervento di questo genere, che per esempio prescriva che il caso degli armeni deve essere definito come genocidio, è il caso della Francia per esempio, inevitabilmente interferisce con la ricerca storica, perché per esempio per il caso degli armeni ci sono alcuni storici che, senza negare minimamente che centinaia di migliaia di armeni siano stati massacrati, però ritengono che non ci siano gli elementi tecnici per definirlo un genocidio, invece preferisco parlare di massacro. Forse dietro c'è anche questa intenzione, che mi pare essere politica, tanto che c'è una presa di posizione dagli altri vertici istituzionali, anche un po' per, come dire, per cercare di fare i conti col nostro passato, e quindi si introduce un reato quale forma indiretta, probabilmente per chiudere una pagina del nostro passato che ancora alimenta divisioni e polemiche. Però non so se è la strada giusta, questo no, è il punto. A mio avviso non è assolutamente questo il modo. A parte che il negazionismo anche nei confronti dell'Olocausto è un fenomeno francamente molto marginale, irrilevante, continuamente condannato, il modo per combattere comunque contro queste forme è semplicemente la diffusione dell'informazione, della cultura e della scuola. Fra l'altro, notiamo una cosa che mi sembra molto importante, cioè a livello europeo e anche a livello italiano, come abbiamo visto dalle affermazioni appunto anche delle più alte cariche dello Stato, si sta delineando una contrapposizione frontale fra storici da un lato, che in Italia, in Francia, a livello europeo, addirittura a livello internazionale, si oppongono a queste leggi, e invece i politici, francamente mi sembra che in molti casi agiscano in maniera, come dire, poco consapevole di tutti gli aspetti tecnici e scientifici della questione, così un po' seguendo l'opinione pubblica e seguendo un facile consenso. Non a caso questo disegno di legge è stato approvato in maniera bipartisan, anzi multipartisan, in questo caso direi, e certamente se è stata bloccata la deliberante è stato, a mio avviso, da parte del Movimento 5 Stelle non tanto per una riflessione di tipo tecnico e scientifico quanto per ragioni politiche, certo, che in parte credo mi sfuggano. Allora, un'ultima questione che ci rinvia un po' a un dibattito che ci fu in Francia nel 2005 a proposito dell'insegnamento sul valore del colonialismo francese. Anche allora ci fu una reazione da parte degli storici e si disse appunto che lo storico non applica agli eventi del passato schemi ideologici tratti dalla realtà contemporanea e non utilizza negli avvenimenti di altri tempi la sensibilità di oggi. È un caso che può aiutarci anche a dissipare i dubbi su quello che sta avvenendo da noi? Sì, è proprio questo uno dei punti fondamentali. Cioè, la ricerca storica è una ricerca scientifica, quindi si limita a accertare sulla base delle fonti ciò che è effettivamente avvenuto. I colleghi francesi che lei ha citato prima appunto dicono lo storico non fa la morale, lo storico analizza i fatti per quello che sono stati. Certamente c'è un problema generale, cioè perché c'è questa deriva, diciamo, di uno scontro di memorie contro la storia? Perché in molti casi in Europa, pensiamo anche semplicemente alle rivendicazioni che stanno emergendo dai paesi che in tempo si trovavano al di là della cortina di ferro, che vorrebbero che venissero condannati, così come sono stati condannati i crimini del nazismo, anche quelli del comunismo, no? Ecco, c'è una serie di rivendicazioni che partono da gruppi attivi nella società civile che cercano di utilizzare il codice penale per mettere a tacere chiunque, ripeto, non soltanto storici, ma chiunque faccia comunicazione, anche giornalisti e insegnanti, i quali sostengono un punto di vista diverso su quella che loro ritengono essere invece la propria esperienza. Bene, allora grazie al professor Caiani, speriamo di aver contribuito a chiarire una questione che certamente farà parlare ancora e sarà all'attenzione delle cronache nelle prossime settimane. Buonasera, grazie ancora. Grazie a lei e buonasera.